Ciao, sono Giusy, sono della provincia di Napoli, ma vivo a Barcellona. Al momento in cui viene registrato questo audio, non è ancora stata presa nessuna misura contro il diffondersi del virus qui. Ma io lavoro per un'agenzia turistica che ha contatti con l'estero, quindi le prenotazioni sono state tutte cancellate o quasi. Chiaro che non nutro nessuna simpatia per il lavoro che mi ritrovo a fare, per necessità, economia di piattaforma, per cui sottoposta a un sistema di rating simile a quello dei riders. Non ha tutele, è un lavoro a chiamata e i criteri con cui veniamo penalizzati o promossi è oscuro, anche se intuibile. È evidente che non è il virus che mi sta rubando il reddito, semmai sta mettendo in luce tutta l'assurdità di come è strutturato questo lavoro. Per storia al telefono, vorrei leggere un estratto da Guida Steampunk all'Apocalisse di Margaret Killjoy, edizioni Agenzia X, senza dimenticare che ciò che per noi sembra surreale e una situazione incredibile è per molti la quotidianità. Di come riconoscere i doni della natura e della rovina. Benché i signori delle classi alte possano arricciare il naso al solo pensiero di turbare le preziose leggi sulla proprietà, chi di noi fa parte della classe operaia del ceto medio comprenderà cosa possa occorrere nei tempi più bui. Le mie non sono parole affrettate. La più grande fonte di risorse disponibili dopo un crollo sociale non sarà la nostra cara terra ipersfruttata, bensì le nostre istituzioni, esistenti e fin da subito antiquate. Ogni cosa sarà disponibile. Quelli che seguono non sono che meri esempi di dove andarle a cercare. Automobili. L'autoveicolo privato, un infernale dinosauro a combustione che si è dato fine con le proprie stesse mani, può essere qui adottato quale esempio perfetto. Dalle automobili si possono ricavare quantomeno le seguenti risorse: i sedili, che andranno a integrare il vostro mobilio, le molle degli ammortizzatori, consistenti in un'eccellente lega d'acciaio che alimenterà la vostra forgia a tempo indefinito. Vi sono gli specchietti da utilizzare per pavoneggiarsi, mandare segnali e costruire i più bizzarri congegni ottici, il parabrezza in vetro temperato che si può impiegare in casa o altrove, la carrozzeria convertibile in un riparo di fortuna o permanente, le cinture di sicurezza composte da tela assai versatile e duratura. Vi sono poi gli pneumatici, la più grande risorsa innaturale di ogni paese industrializzato. Gli pneumatici più vecchi, quelli privi di cintura radiale in acciaio, si possono ritagliare per produrre sandali. Tutti i tipi di copertone possono diventare eccellenti fioriere rialzate o impilate contenitori per il compost. Bottiglie di plastica. Le bottiglie di plastica vuote si possono adoperare per migliaia di usi diversi. Con tale materiale sono state costruite barche e zattere, e la plastica si può utilizzare per l'impermeabilizzazione. Riempiendole solo in parte si ottiene una lente in cui convogliare i raggi del sole per accendere il fuoco. Inoltre vi si può conservare l'acqua e si possono tagliare per ottenere palette, piatti e imbuti. Di fatto l'unico svantaggio delle bottiglie di plastica è che ci rammentano un passato che speriamo di dimenticare presto. Libri. È uno sventirato dato di fatto che nei giorni immediatamente successivi all'Apocalisse potrebbe rimanervi pochissimo tempo da dedicare alle gioie della lettura. Come che sia, un patrimonio di conoscenze pressoché infinito è stato immortalato per noi in parole scritte. Ed è senz'altro raccomandabile accumulare una vasta biblioteca di materiali istruttivi. A ciò si aggiunga che quando i manigoldi si estingueranno e le permaculture daranno i loro frutti, si potrà godere di un'ampia quantità di tempo libero per immergersi nei viaggi fantastici che si troveranno rinchiusi nelle copertine dei libri d'avventura. Una profusione di volumi sarà come ovvio rintracciabile in maniera assai agevole nelle biblioteche della società moderna e sarebbe assennato metterli in salvo dalle torce degli affamati. Le principali librerie di catena continueranno purtroppo a lasciarvi delusi, persino dopo i drastici sconti che avranno applicato sui prezzi. Introduzione al capitolo 4. Dei manigoldi e di come difendersi dalla loro genia. Coloro i quali affermano che la fine dei tempi non sarà tempo di eroismi non sono che ignobili codardi. Giungeranno momenti in cui il vostro coraggio sarà messo alla prova, quando vi sarà data l'opportunità di soccorrere i vostri compagni. E per quanto non occorra né convenga, mentre è a repentaglio la propria vita in maniera ingiustificata, se vi sottrarrete a ogni conflitto non avrete più alcun amico che possa fornirvi aiuto. chi preferisce passare tranquillamente oltre un'aggressione in strada o assistere in silenzio a una violenza razzista, sprofonderà nella più assoluta inerme solitudine in questo nuovo mondo caotico.